L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta, il cui filo conduttore possiamo dire sarà l'energia, l'efficienza energetica, il risparmio energetico, l'energia rinnovabile, un po' tutto questo. Nella prima parte parliamo di una manifestazione che si è svolta in settimana a Roma, dove si sono riuniti ambientalisti e associazioni delle rinnovabili per chiedere anche al nuovo governo un forte impegno sul fronte europeo per ottenere dei target stringenti per il 2030 per evitare e contrastare i cambiamenti climatici. Nella seconda parte invece parleremo di esperienze concrete di chi appunto vuol fare efficienza energetica e produrre l'energia in modo rinnovabile e quindi appunto si è messo al lavoro. Questo soggetto è Conad, l'ha fatto con Officine Verdi e appunto sentiremo nella seconda parte del programma tutti i dettagli di come e perché si sono mossi. Ma cominciamo con Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia del WWF Italia. Lei c'era alla manifestazione appunto a Roma di ambientalisti e associazioni delle rinnovabili e quindi prima di tutto, Maria Grazia, ti chiediamo com'è andata. Beh, noi siamo andati davanti a Montecitorio, come sapete davanti a Palazzo Chigi non ci si può andare, in occasione del primo Consiglio dei Ministri per sollevare la questione dell'importanza della green economy e delle rinnovabili nel futuro del governo e del Paese e anche per porre all'attenzione la necessità di un rafforzamento del pacchetto europeo su clima ed energia. Ma ovviamente nel diluvio di ieri non abbiamo direttamente interloquito, però era un modo simbolico per far sentire sin da subito la nostra voce e la nostra presenza. Quindi è stato un approccio, diciamo, ecco, poi vediamo nei giorni prossimi. Abbiamo ancora diverso tempo perché comunque la riunione del Consiglio europeo è il 20-21 marzo, ma certo da qui ad allora il governo si dovrebbe far portavoce, perlomeno far sentire la posizione italiana su temi su cui la Commissione in questo momento ha puntato al ribasso, quindi non è facile. Esatto, ma già da lunedì e martedì ci sono due consigli europei, i primi due consigli europei dei ministri dell'ambiente e dei ministri dell'energia, quindi avremo un primo approccio alla posizione italiana e noi riteniamo che l'Italia non debba costruire un po' sulle premesse che ha posto il ministro Orlando nel precedente governo, finalmente schierandosi con i paesi più avanzati. Ovviamente nell'Unione Europea ci sono molte spinte, c'è l'interesse della Polonia che va a carbone sostanzialmente e ci sono altri paesi che pur diciamo alimentandosi con i combustibili fossili però stanno cercando di cambiare e di virare verso un'energia rinnovabile e speriamo anche, su questo l'Italia potrebbe giocare un forte ruolo verso l'efficienza energetica. Ma in realtà tu dicevi prima, scusami se ti interrompo, che ci sono molte pressioni anche a livello europeo, citavi la Polonia, ma ci sono anche a livello proprio nostro, nazionale, cioè non tutti sono stati d'accordo con il ministro Orlando, ricordiamo bene. È una partita che non è chiarissima forse, i dati sono negativissimi, non è che stiamo andando verso uno scenario di mantenimento, ma di forte cambiamento climatico se non invertiamo la rotta. Il dato climatico è molto preoccupante. Il 2014 è iniziato con tantissimi eventi estremi, il Guardian ha pubblicato una mappa che veramente dovrebbe far tremare le vene ai polsi. I dati sul possibile impatto del cambiamento climatico ugualmente sono molto molto allarmanti. D'altro canto noi oggi siamo la generazione che può invertire questa tendenza e che ha uno spiraglio, lo dicono gli scienziati, noi abbiamo proprio una finestra per poter intervenire ed evitare il cambiamento climatico pericoloso. Io credo che l'Italia debba riflettere molto profondamente su quale ruolo vorrà giocare nell'economia del futuro, altrimenti piangiamo oggi e piangeremo domani perché non saremo stati capaci di avanzare. Ecco, per questo io dico, noi dobbiamo giocare un ruolo positivo. Certo, in Italia ci sono state prese di posizione in senso contrario e noi siamo stati anche un po' delusi per esempio dalla presa di posizione del presidente di Confindustria, perché aveva firmato un appello a livello europeo per un'economia diversa. Ecco, poi nella pratica questa economia diversa si reggerà sicuramente su un paradigma che è consumare meno energia in questo caso, ma consumare meno in senso generale e produrre in modo diverso l'energia. Gli ultimi minuti vorrei che li dedicassimo ai target che ci si potrebbero dare e che non sono quelli che fino adesso sono stati previsti dalla Commissione europea. Noi dobbiamo darci un obiettivo di decarbonizzazione, quindi di taglio delle emissioni che sia superiore al 40%, perché il 40% in un qualche modo è un po' continuare sul trend attuale, anzi rallentandolo forse anche un pochettino. Poi noi vogliamo degli obiettivi obbligatori e paese per paese sulle rinnovabili. Ora, su questo si è scatenato un grande dibattito, perché c'è chi vuole solo l'obiettivo di decarbonizzazione e non quello sulle rinnovabili. Io lo capisco che questo possa essere nell'interesse di paesi che vogliono il nucleare, ma noi che interesse abbiamo? Noi dobbiamo invece avere questo target, perché oltretutto noi siamo un paese che senza obiettivi non riesce ad andare, anzi persino con gli obiettivi non riusciamo a fare sistema in modo. E l'altro obiettivo che noi vogliamo assolutamente è quello per l'efficienza energetica. E su questo tutti quanti in Italia usano molto la retorica dell'efficienza energetica, vediamo delle cose positive, perché poi le cose positive vanno sottolineate, però per esempio l'efficienza degli edifici, la defiscalizzazione delle misure di efficientizzazione degli edifici devono essere prorogate di anno in anno invece di essere rese diciamo strutturali. Però insomma ci sono dei segnali positivi, noi su questo possiamo giocare un ruolo. È chiaro che dire dobbiamo diminuire i consumi per chi ragiona nel vecchio modo e quindi ragiona in termini di devo vendere molta energia non è facile da digerire, però ecco, i paesi si ritengono virtuosi come il nostro dovrebbero premere. E certo, e cercare di portare a casa il risultato. Grazie Maria Grazia Midulla, ricordo responsabile clima ed energia WWF Italia. Grazie mille, arrivederci. L'altro pianeta. Ultimi 15 minuti dell'altro pianeta. Nella prima parte della trasmissione abbiamo detto della manifestazione di ambientalisti e associazioni delle energie rinnovabili che si è tenuta a Roma la scorsa settimana per evidenziare al nuovo governo l'importanza e la necessità di impegnarsi in Italia e in Europa con traguardi alti di riduzione delle emissioni, di efficienza energetica, di produzione delle energie rinnovabili per ridurre i cambiamenti climatici. Ora parleremo di un'esperienza concreta di riduzione delle emissioni. Il filo conduttore della puntata, abbiamo detto all'inizio, è l'energia, ma è anche il WWF che se da un lato scende in piazza, dall'altro sa anche dare un supporto tecnico-scientifico alle aziende che vogliono intraprendere un percorso di riduzione delle emissioni di CO2. Le associazioni ambientaliste, ormai va sottolineato, non sono solo quelle che scendono in piazza, ormai sanno dare anche delle risposte. Dunque, il caso concreto di cui parliamo oggi è quello del gruppo Conad del Tirreno, che è entrato a far parte della piattaforma Energia a Chilometro Zero Project, un progetto appunto di Officine Verdi che è a sua volta una joint venture tra WWF e Unicredit. Ugo Baldi, l'amministratore delegato di Conad del Tirreno, ci spiega innanzitutto che cosa hanno fatto, che cosa hanno in mente di fare. Conad del Tirreno lavora sul parte della Liguria, sulla Toscana, sulla Sardegna e sul Lazio fino a Roma. Quindi una bella fetta d'Italia. Sì. Voi vi siete dati questo obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del 40% al 2020, quindi non poca cosa. Iniziamo col dire da quanto tempo ci lavorate e perché. Ci lavoriamo già da un po' di tempo, abbiamo cominciato 2 anni fa e l'abbiamo realizzato oggi già la prima parte di questo progetto, che è con impianti fotovoltaici che già producono 5 megawatt annui e che sono per autoconsumo, e quindi il progetto è già iniziato, è già realizzato, siamo già nella logica del progetto zero di Officine Verdi, siamo già entrati quindi con questa cosa. Oggi stiamo facendo qualcosa di più, stiamo iniziando un percorso che tocca a 50 nostri punti di vendita, che le ristruttureremo puntando appunto all'efficientamento energetico e in questo senso a quell'obiettivo che diceva prima lei, entro il 2020, del 40% di riduzione delle emissioni CO2. È un percorso, e questo fa parte della nostra mission. Noi riteniamo, è la nostra visione strategica che ci porta a dire che l'ambiente, la difesa dell'ambiente, l'attenzione all'ambiente è una responsabilità sociale e quindi è un impegno che noi vogliamo fare e che facciamo. Senta, anche la grande distribuzione è un settore energivoro, 7,5% per le sole attività commerciali, quindi è tanta cosa. Sì, è tantissima cosa ed è uno dei mangiatori, diciamo, di energia più forti, più grandi. Quindi che bello sarebbe se tutti i supermercati ce l'avessero i pannelli fotovoltaici. Certo, perché pensi un po' che sono circa 4,2 miliardi di euro il consumo elettrico nazionale delle attività commerciali. Ebbene, se tutto quanto la grande distribuzione facesse quello che stiamo facendo noi, come con il Tirreno, insieme a Officine Verdi, insieme in questa logica che è collegata anche alla visione di WWF, vorrebbe dire fare in modo che il sistema paese risparmi circa 2 miliardi e mezzo di euro all'anno, che significano 7 milioni in meno di emissioni di CO2, una dimensione straordinaria, che sono oltre 1.200.000 di ettari di alberi, insomma, voglio dire, è una dimensione grossissima, quindi sarebbe bene sì che su queste cose si muovesse tutta anche la grande distribuzione. Certo, senta, per voi quanto è stato importante avere un partner come Officine Verdi, cioè in che misura vi ha aiutato? Beh, cioè, progettazione, sostegno. Un partner forte, perché fa livelli molto avanzati per quanto riguarda la progettazione, è un partner che ha cominciato già a lavorare da tempo su questa direzione, questo progetto importante di energia chilometro zero project, che è di Officine Verdi, è basata sulla visione energetica del WWF, per cui l'abbiamo sposato questa cosa e abbiamo sposato un progetto che per noi significa un investimento di circa 40 milioni, per esempio, per darle le dimensioni di quello di cui stiamo parlando, di cui 30 milioni solamente dedicate all'aspetto proprio dell'efficienza energetico, e questo progetto lo portiamo avanti con Officine Verdi e con un project finance insieme ad Unicredit. Tempi di rientro per questi investimenti previsti? I tempi di rientro sono, diciamo che questa è un'operazione che si sviluppa in 8 anni, è 8 anni il momento, diciamo, in cui tutto quanto il progetto viene portato a termine e viene, diciamo, pagato in 8 anni con il risparmio energetico, e quindi dopo l'8° anno di proprietà nostra, tutto quello che sarà il vantaggio sarà totalmente nostro, mentre l'investimento viene ripagato proprio col risparmio energetico. È proprio uno degli impegni e del contrattualmente fatti con Officine Verdi, sta proprio in questa direzione. Adesso voi vi siete impegnati appunto per una produzione di energia a chilometro zero, ma quali accorgimenti all'interno dei punti vendita avete anche messo a punto per fare efficienza energetica? Perché a questo punto è necessario, direi, fa parte della stessa idea, dello stesso spirito. Sì, sono gli aspetti più importanti per l'efficientamento energetico sono il rifacimento e ottimizzazione degli impianti di climatizzazione, impianti di illuminazione full LED a livello completo, compreso il negozio, parcheggi, compresi tutto quanto, gli impianti e le attrezzature del verde, del freddo, scusi, e poi le tecniche più avanzate per quanto riguarda la telegestione della catena del freddo, in modo tale che ci possa essere il controllo per questa efficienza degli impianti, e poi per esempio anche la cura attenta a fare in modo che non ci sia dispersioni, per cui energetico, per cui tutta la cura anche all'arrivedimento, al rifacimento dell'impostazione del punto di vendita per quanto riguarda le dispersioni energetiche. È un progetto importante, un progetto grosso. Come lavora Officine Verdi, di cui ci ha appena accennato qualcosa Ugo Baldi, e come ha lavorato in questo specifico caso, lo sentiamo dalle parole di Giovanni Tordi, che è appunto l'amministratore delegato di Officine Verdi. Noi ci occupiamo sostanzialmente di tecnologie green in ambito energetico. Questo significa intervenire sia su diciamo tutte quelle tecnologie che rientrano nella categoria delle rinnovabili, tra cui il fotovoltaico ad esempio, ma non solo, perché poi c'è il mini eolico, il mini idro, insomma diverse tecnologie che sono di produzione da fonte rinnovabile, sia però sui processi di riqualificazione energetica che insistono sull'efficienza energetica, quindi su quelle tecnologie che abilitano un risparmio energetico, per esempio sui sistemi, diciamo, di riscaldamento, climatizzazione e via dicendo. Quindi nell'ambito del progetto sviluppato con il gruppo Conad del Tirreno abbiamo avviato delle prime attività sulla parte delle rinnovabili, poi il progetto ha nel suo sviluppo futuro degli interventi in ambito di efficienza energetica sui singoli store. Quindi, se ho ben capito, nel caso di Conad si è arrivati a pensare, non so, ai pannelli fotovoltaici, in altre situazioni voi valutate quale può essere la soluzione migliore per chi si rivolge a Officine Verdi. Sì, assolutamente. Faccio degli esempi pratici così che rendano un po' l'idea, no? Di solito si interviene sempre con dei mix di soluzioni tecnologiche. Per il tema, diciamo, delle rinnovabili, prendo solo una parola e poi spieghiamo la parte di efficienza energetica. Molto spesso, anzi, percezione abbastanza diffusa, che il fotovoltaico non sia più conveniente perché di fatto è finita la curva degli incentivi. Ecco, questo è, diciamo, un mito un po' da sfatare. Noi abbiamo lanciato delle prime soluzioni fotovoltaiche già a novembre dello scorso anno, nelle quali presentavamo diciamo delle soluzioni tecnologiche in grado di avere una buona sostenibilità economico-finanziaria anche in assenza di incentivi. In poche parole, 2 anni fa realizzare un impianto fotovoltaico costava sicuramente molto di più, e però c'erano gli incentivi che bilanciavano questo costo della tecnologia. Noi siamo arrivati per primi a ridurre molto il costo della tecnologia dei sistemi, anche e quindi in assenza di incentivi, questo qui rende l'intervento assolutamente sostenibile. Solo e bisogna guardare al fattore di autoconsumo, nel senso che è sostenibile non in una logica speculativa, ma in una logica di autoconsumo. Quindi quelle organizzazioni che consumano molta energia, se possono realizzare degli impianti fotovoltaici, sicuramente hanno un vantaggio competitivo che recuperano dall'autoproduzione. Sulla parte di efficienza energetica, invece, in ambito grande distribuzione, cosa viene fatto? Cioè, il nostro approccio parte sempre da un'analisi, quindi abbiamo dei team di specialisti che fanno un'analisi punto vendita per punto vendita e identificano quelle che sono le dispersioni energetiche. Questi dati vengono raccolti centralmente attraverso delle piattaforme informatiche, analizzati, e danno l'esatta misurazione di quello che sta succedendo all'interno di di un sito. Da qui poi parte un piano vero e proprio di sviluppo e di intervento su alcune tecnologie, e di solito, solitamente, si interviene su 3-4 ambiti che sono quelli più diffusi, che sono da una parte tutto il sistema di climatizzazione caldo-freddo, poi c'è tutta la parte della catena del freddo che incide molto sui consumi energetici, la parte di illuminazione, quindi passare ad un'illuminazione efficiente, no? Con applicazione di LED, e poi sicuramente attraverso questo sistema che come Officine Verdi abbiamo chiamato Energy Mac, che sarebbe Metering and Control, il fatto di poter costantemente monitorare, intervenire sulle regolazioni, consente anche qui di avere sempre sotto controllo il consumo energetico e il potenziale di risparmio. E infine, elaborato il piano, a seconda delle esigenze e dei criteri del WWF, non è un dettaglio che Officine Verdi possa contare sulla leva finanziaria di Unicredit, che su questo progetto è, ricordiamo, in joint venture con il WWF. Ma quello dei finanziamenti ai progetti verdi è un altro capitolo amplissimo. Lo rinviamo a un'altra occasione, per oggi ci fermiamo qui, troverete tutto sul nostro sito internet radio24.it alla pagina dell'altro pianeta a partire da domani, lunedì. Da Laura Bettini, appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.